The general topic for this meditation retreat is the cultivation of intuitive wisdom. Allora, l'argomento generale di questo ritiro sarà lo sviluppo della saggezza intuitiva. During this sudden retreat here at Spiandici Leji, we will explore and practice Satipatthana meditation with an emphasis on intuitive wisdom, which in the Pali scriptural language is known as Panya. In questo ritiro noi svilupperemo i quattro Satipatthana che sono sì, e i quattro Satipatthana con una focalizzazione centrale sullo sviluppo di questa saggezza intuitiva che in Pali viene chiamata Panya. Ways of cultivating intuitive wisdom will be described both from a theoretical and practical point of view. I modi per sviluppare questa saggezza intuitiva verranno descritti sia da un punto di vista pratico che da un punto di vista teorico. The etymology and definitions of the term Panya reveal different facets of this perfection. E se guardiamo proprio la definizione della parola Panya, possiamo vedere tutte le sfaccettature che ha questa parola. We will also explore the factors contributing to the acquisition of wisdom. Esploreremo anche i fattori che contribuiscono allo sviluppo della saggezza. The texts speak of sharp, strong, clear and progressive or developing intuitive wisdom, and the meaning of these qualities will be explained. I testi parlano dello sviluppo appunto di questa profonda saggezza che è chiara, forte e acuta, e verrà spiegato il significato di tutto questo. Throughout this retreat, the gradual unfolding, the benefits and the goal of intuitive wisdom will be outlined. E verranno inoltre delineati durante questo ritiro poi quali sono i benefici di questa pratica e anche i vari, diciamo, scopi a cui possiamo puntare. And now, to begin with a Jataka story that nicely summarizes the main aspects of wisdom. Adesso iniziamo da una storia presente nei Jataka che riassume in modo molto carino questo sviluppo della saggezza. And the name of Vatna the Jataka is Pallasa Jataka. Il nome di questa storia è Pallasa Jataka. The Bodhisatta, the Buddha to be, was once a goose living in the Himalayas. Una volta il Bodhisatta, cioè colui che poi è diventato un Buddha, era nato come un oca che viveva nell'Himalaya. Every day, while flying to and from the lake where he fed, he stopped to rest on a large Judas tree and became good friends with the tree deity that dwelt in it. ogni giorno questa oca volava dal lago in cui viveva e poi ritornava indietro e si fermava a riposare su quest'albero di Giuda, e quindi fermandosi ogni giorno lì fece amicizia con le divinità che vivevano in questo albero. One day a bird defecated a banyan tree seed into one of the Judas tree's crevices. Quindi una volta ha visto un seme di un albero di bagnano in una fessura dell'albero di Giuda. Defecato. Ah, avevo sentito bene, ok. Un uccello aveva defecato e c'era un seme di albero di bagnano che è caduto in questa fessura nell'albero di Giuda. Okay. When it had grown into a sprout, the Bodhisattva noticed it and told the tree deity that banyans kill every tree they grow on, so he should pick it off. E quando questo seme divenne un germoglio, il Bodhisattva se ne accorse, quindi disse alle divinità dell'albero di Giuda che lui avrebbe dovuto uccidere questo germoglio, perché altrimenti il bagnano, poi crescendo, avrebbe ucciso l'albero come uccide tutti gli alberi su cui cresce. But the tree deity wanted to let it grow and care for it like a child. Ma la divinità invece che abitava nell'albero di Giuda volle lasciare crescere questo germoglio e se ne voleva occupare come di un piccolo bambino. The Bodhisattva said he was a fool and stopped visiting the Judas tree. Il Bodhisattva gli disse che era un folle a fare questa cosa e smise di visitarlo. Eventually, the banyan engulfed the Judas tree just as the Bodhisattva had said it would. E alla fine questo albero di bagnano soffocò completamente l'albero di Giuda esattamente come aveva detto il Bodhisattva. The tree deity lost his home. E la divinità che viveva nell'albero perse la sua casa. He regretted not following the Buddha's advice. E si pentì di non aver seguito il consiglio del Buddha. No, this jataka, Palasa jataka, nicely summarizes the two main qualities of the Buddha, namely, on the one hand side, compassion, and on the other hand, intuitive wisdom. And it was out of wisdom that the Bodhisattva warned the tree deity, and it was out of wisdom that the Buddha could see what would happen in the future, namely that this seedling of a banyan tree would grow to then destroy the Judas tree. E questa storia nel Pannasa Jataka riassume in modo molto carino le due qualità del Buddha, quindi la compassione e questa saggezza intuitiva, perché fu per compassione che volle avvisare la divinità che il suo albero sarebbe stato rovinato e riuscì a capire che questo sarebbe successo grazie alla sua saggezza intuitiva che gli permise di prevedere quello che sarebbe accaduto. And as ordinary human beings, there are many things that we don't understand, and accordingly, we make all sorts of mistakes. And it is the Buddha who out of great wisdom saw these obstacles or defilements in human beings, difficulties in human beings, that he then warned them or taught them a path that leads to freedom from suffering. E noi, essendo esseri umani ordinari, ci sono molte cose che non riusciamo a vedere, incontriamo molte difficoltà, e il Buddha, lui conosceva queste difficoltà, questi inquinanti che abbiamo nella nostra mente, e sapeva anche come questi inquinanti possono essere fatti a pezzi, fatti diminuire e come liberarsene. And if we don't want to be like that certain tree and deity and lose the Judas certain tree that it certain dwelt in, then we may want to pay close attention to the Buddha's teachings. And certain the Buddha's teachings starting with teachings on ethical conduct. E se non vogliamo fare la fine di questa divinità che ha perso la sua casa, il suo albero, allora magari noi vorremmo seguire gli insegnamenti che ci ha dato il Buddha. E il Buddha ha iniziato i suoi insegnamenti dagli insegnamenti della condotta etica. And this ethical conduct is the foundation for the development of concentration as well as for the development of intuitive wisdom. E la condotta etica è il fondamento per lo sviluppo della concentrazione e anche della saggezza intuitiva. And to be very clear, if we assume that certain concentration arises by itself easily, etc., without being established in ethical conduct, then that will be a wrong assumption. E se noi pensiamo, e anche quello che capiremo in fretta, che se crediamo che una concentrazione possa sorgere così facilmente, spontaneamente, senza avere una base nella condotta etica, ci renderemo conto che questo è un pensiero sbagliato. And in the same way, if we think, well, ethical conduct, that's not for me, I'll go for the wisdom part right away, we want shortcuts, we want things to happen quickly, then this too will not work. E se abbiamo il pensiero, ma la condotta etica non fa per me, io andrò direttamente sulla parte della saggezza, sviluppare la saggezza, ma ci renderemo conto che anche questo non funziona. No. Observing the eight precepts, or outside of a retreat, the five precepts, for some the ten precepts, monastic vows, we do this out of an understanding that by transgressing in this way or that way, we will bring harm to ourselves, we will bring harm to others, and we will bring harm to both ourselves as well as others. E ci rendiamo conto che rispettando i precetti, per esempio quando siamo qua a ritiro, 5, gli 8 precetti, o per esempio anche i 10 precetti, o le regole monastiche per chi è un monaco, e anche fuori dal ritiro possiamo continuare a rispettare i 5 precetti, lo facciamo perché questo si basa sulla comprensione che ci rendiamo conto che quando trasgrediamo questi precetti noi creiamo sofferenza per noi, per gli altri e per entrambi. Now, if we were to contemplate, to take the life of a sentient being, then we should carefully reflect, or we should put ourselves in the shoes of that other sentient being, so to speak, and certainly then reflect whether we would like to be tormented or even killed. Quindi se noi prendiamo la vita di un altro essere o lo danneggiamo, possiamo riflettere prima di farlo se ci piacerebbe essere al posto suo, quindi se ci piacerebbe essere uccisi, se ci piacerebbe essere tormentati in questo modo. And so if we don't like the prospect of being tormented, harmed, or killed, well, then others will also not like it, and hence we then refrain from this action, bodily action. Quindi se non ci piace la prospettiva di essere tormentati, danneggiati o addirittura uccisi, allora possiamo immaginare che anche agli altri esseri viventi questo non faccia piacere, e quindi possiamo fermarci prima di compiere questa azione con il corpo. Then, if an occasion is there to take another person's property, to embezzle it, before actually doing it, we should carefully consider whether we would like it if someone comes along and takes our property away or embezzles it. Allora, prima di prendere... un attimo, cosa vuol dire embezzle? Embezzle. Rubare. Ah, ok, un sinonimo. Ok. Quindi prima di prendere qualcosa o di rubare qualcosa che appartiene a qualcun altro, allo stesso modo possiamo pensare se a noi piacerebbe che le nostre cose ci venissero sottratte, e quindi anche in questo caso, prima di compiere questa azione, ci fermiamo. And so, with regard to the remaining precepts, the principle is certainly the same. We place ourselves in the shoes of another person. We ask ourselves whether we would like such and such to be done to us or not. If we don't like it, we don't do it. Quindi con questi altri due precetti, altri precetti in generale, vale la stessa cosa. Prima di compiere queste azioni noi ci fermiamo un attimo, riflettiamo se fossimo al posto di quest'altra persona cosa proveremmo, e ci piacerebbe o no subire questa cosa. Se la risposta è no, non lo facciamo. And so in this way we stay away from any form of adultery, and as part of the eight precepts, the third precept says to not engage in any sexual activity on a retreat, even with one's spouse or partner. Quindi per quanto riguarda il terzo precetto è non fare nessuna forma di adulterio. Qui in ritiro questo precetto vuol dire astenersi a qualunque attività sessuale anche con il proprio partner. And in this way, by keeping this third precept, we respect the relationships of others. In questo modo, mantenendo il terzo precetto, noi stiamo rispettando le relazioni degli altri. And recognizing that false speech may create a lot of suffering to others, we refrain from it. E poi riconoscendo che una parola che è falsa può creare molta sofferenza nelle altre persone, ci asteniamo dal parlare in questo modo. Now, the Buddhist teachings are very much geared towards mindfulness, and this is what we are going to develop during this retreat. And with this, obviously, we want to stay away from any indulgence in intoxicating substances that produce just the opposite of mindfulness, namely heedlessness, absent-mindedness. Gli insegnamenti del Buddha, come vedremo anche, sono basati sulla consapevolezza ed è quello che svilupperemo qui. Quindi quello che vogliamo fare naturalmente è cercare di stare lontano da delle sostanze che possono annebbiare la mente, quindi da tutti i tipi di intossicanti, droghe, eccetera. No. During an intensive retreat like this one, we observe the 8 precepts, and the 6th out of the 8 precepts is that of not taking any solid food after the sun is in the zenith. So after 12 o'clock, now it's summertime here, so it's later than that. E, inoltre nei ritiri intensivi ci sono anche gli 8 precetti, di cui il 6° è quello di appunto non mangiare cibo solido dopo che il sole è allo suo zenith, quindi diciamo dopo il pranzo di mezzogiorno non mangiare più il cibo solido. So the eating is limited to the period between the dawn and certainly noon. Quindi il periodo in cui si mangia è limitato dall'alba fino all'ora al dopo pranzo, all'ora di pranzo. No, it is a common experience among meditators that after a delicious meal we then go and sit and fall asleep. And by not taking food in the evening, we avoid that sleepiness. È un'esperienza molto comune per i meditanti che dopo aver mangiato del cibo delizioso, poi ci si va a fare la seduta appena dopo pranzo e si cade addormentati. Quindi, evitando di mangiare di pomeriggio, il beneficio è quello che riusciremo a meditare in modo più leggero. No. During this retreat, however, a number of new meditators are participating, and they might not be used to getting by with 2 meals only, and hence there will be some fruits available and something to drink available in the late afternoon. Comunque, dato che in questo ritiro ci sono molti meditanti nuovi che non sono abituati a saltare completamente il pasto, ci sarà comunque uno spuntino, un po' di frutta, qualche cosa da mangiare di pomeriggio. No, still with regard to eating, the Buddha has certainly given good advice in this regard, namely to practice moderation in eating and not to eat in an excessive manner. E riguardo al cibo, il Buddha comunque consigliava di praticare la moderazione verso il cibo, quindi non mangiare in modo eccessivo, mangiare quello che ci basta. And that when we take food, primarily we do this to sustain the body and also allow us to carry out this spiritual work. Noi mangiamo per lo scopo per cui mangiamo è quello di sostenere il corpo e darci l'energia necessaria per intraprendere questo sentiero spirituale. Now, during an intensive retreat, we try to keep distractions to an absolute minimum, hence the 7th precept of not engaging in dancing, singing and the like. E durante un ritiro intensivo noi cerchiamo di ridurre al minimo le distrazioni, e quindi il settimo precetto riguarda appunto non danzare, cantare e fare queste cose, intrattenersi. And we also refrain from adorning ourselves in various ways, realizing that this retreat is not about starting a relationship with another person, but rather about practicing the Dhamma and doing this committing to this 100%. E poi non abbelliamo il nostro corpo in nessun modo, perché questo ritiro non è fatto per cercare un partner, ma è fatto per dedicarci con serietà al 100% alla pratica di meditazione. And finally, we try to not use high and luxurious seats and beds that could possibly lead to the arising of pride and conceit. E poi cerchiamo di non utilizzare delle sedie o dei letti molto lussuosi che possano fare sorgere la presunzione o l'arroganza. O l'orgoglio, sì, l'orgoglio o la presunzione. Yeah. Now, the main aim of observing an ethical code of conduct is to ensure that the mind is relatively free from disruptions. And it's not just that, it's primarily to cultivate our conduct, our bodily conduct, so that it becomes ethical, and our verbal conduct so that it becomes ethical. E lo scopo di seguire queste regole etiche, questi precetti, è prima di tutto di mantenere la mente libera dalle distrazioni e poi in secondo luogo appunto di mantenere queste azioni a livello corporeo, a livello verbale, etiche. Now, by meticulously observing the 8 precepts, we will contribute to at least a relatively peaceful environment around us. Quindi mantenendo in modo meticoloso gli 8 precetti, noi stiamo contribuendo a garantire un ambiente che sia benefico e come si dice, sicuro and e pacifico. And such a peaceful environment is necessary, is highly conducive to good practice. E un ambiente circostante pacifico è qualcosa che aiuta tantissimo lo sviluppo della pratica di meditazione. Now, what happens if we do transgress this or that ethical precept? Sooner or later, we will end up having remorse or regretting what we have done or said. And that regret, that remorse, manifests in the mind as agitation. With an agitated mind, it will be very difficult to observe the true nature of formations. Perché quello che succede se trasgrediamo uno di questi precetti, che poi dopo sorgerà nella mente probabilmente del rimorso e rimpiangeremo per esempio di aver fatto, di avere detto qualcosa, e con il rimorso sorge nella mente l'agitazione e quindi poi è difficile meditare, praticare. So, in the absence of remorse due to transgressions, it will be so much easier to develop concentration and based on this to develop intuitive wisdom. Quindi in assenza di un rimorso che potrebbe sorgere appunto dal trasgredire i precetti, diventa molto più semplice il sorgere della concentrazione e sulla base di questa della saggezza intuitiva. Now, the Buddha has described a number of auxiliary practices that ideally should complement the Satipatthana meditation practice. Il Buddha succintamente ha descritto. La cosa seconda le pratiche. Ok, il Buddha ha descritto molte pratiche ausiliarie che accompagna, che sono descritte nei quattro fondamenti della consapevolezza, aiutano a sviluppare i quattro fondamenti della consapevolezza. And so among those, moderation in eating is one. Next one is to observe noble silence, in Pali known as sadariyo tunibavo. E una di queste è appunto la moderazione nel mangiare, e la seconda è rispettare il nobile silenzio, che in Pali è qualcosa. Ario tunibavo. Che no, there are still a couple of other things that we might want to not engage in while on retreat. Poi ci sono un altro paio di cose che sarebbe meglio non fare mentre siamo in ritiro. No, the Buddha states in the Anguttara Nikaya that there are six qualities that lead to the decline of a retreatant. Allora, nel Sanguttara Nikaya il Buddha parla di sei fattori che conducono al declinare di un meditante. And those certain six factors or qualities are, number one, delight in work, in kamma in Pali. Allora, il primo di queste cose, di queste qualità, è il deliziarsi nel lavoro, che in Pali è kamma. Kamma. The next one, the next quality is delight in talk, bassa, in the Pali scriptural language. Il secondo è deliziarsi nel parlare, e in Pali è bassa. And then, as number three, we have taking delight in sleep, nidda, in the Pali scriptural language. E poi il terzo è deliziarsi nel dormire, che sarà midda, nidda, nidda. Yeah. And then, as number four, we have taking delight in company, sanghanika, in the Pali language. Poi il quarto è deliziarsi nella compagnia degli altri, sanghanika in Pali. Mm-hmm. Then we have as number five, not guarding the doors of the faculty of the sense faculties, meaning not guarding the eyes, the ears, the nose, the tongue, the body and the mind. Il quinto è non fare la guardia alle facoltà dei sensi, quindi agli occhi, alle orecchie, al naso, alla bocca, al corpo e alla mente. And the last one or quality is lack of moderation in eating. E poi il sesto è la mancanza appunto della moderazione nel mangiare. And so the Buddha says these six qualities lead to the decline of retreatant. E quindi il Buddha dice che queste sei cose conducono al declinare di un meditante, al declino di un meditante. Now, here at Biandi Chileji, as well as other meditation centers, it's common that retreatants are being asked to help carry out or perform certain chores to allow the center to operate properly. This much, if it's limited in time, that's fine. E qui a Pian dei Ciliegi, come in altri centri di meditazione, i meditanti hanno dei piccoli lavoretti per aiutare il buon funzionamento del centro, e se questo lavoro è limitato a un piccolo periodo di tempo, questo va bene. Now, on retreat, we want to keep the talking to an absolute minimum, namely limited to the conversation during the interviews, limited to maybe if we need urgently need this or that certain thing, or we need some advice, etc. But otherwise, we will try to observe noble silence. Poi in ritiro vogliamo tenere le chiacchiere al minimo, quindi si può parlare durante il colloquio con l'insegnante, oppure naturalmente se abbiamo bisogno di qualche cosa, dobbiamo chiedere qualche cosa, o se ci servono dei consigli, però per il resto dovremmo evitare di parlare. And the reason for this is that as a meditator, if we speak for 5 minutes, or we are engaged in a conversation for 5 minutes, and then comes the next sitting session, and we meditate, in no time, memories of the recent conversation will come up in the mind, and we will get carried away with those memories and further reflections. Perché è quello che succede quando siamo in ritiro, che basta parlare per soli 5 minuti e poi quando andiamo a sederci durante la meditazione vediamo che iniziano subito ad arrivarci queste memorie, questi pensieri legati alla conversazione che abbiamo avuto poco prima. And there will also be some negative impact on the other person who took part in the conversation. E questo avrà anche una controparte negativa anche per la persona con la quale abbiamo chiacchierato. And the mindfulness will be gone during that period. E quindi in quel periodo la consapevolezza se ne sarà andata, insomma. The venerable Mahasi Sayadaw of Burma, whose instructions we follow, and his instructions of course are based on the Buddha's instructions, the venerable Mahasi Sayadaw recommended to limit one's sleep at night to maximum 6 hours. Something between 4 to 6 hours. Il venerabile Mahasi Sayadaw della Birmania, che adesso seguiremo qui i suoi insegnamenti in questo corso, che naturalmente poi lui si rifà al Buddha stesso, comunque lui suggeriva di dormire di notte non più di 6 ore, per lui il range adatto per dormire sarebbe dalle 4 alle 6 ore. Now, when we engage in intensive mindfulness meditation practice, we will over time recognize that at times we get by with much less sleep than usual. E comunque praticando in modo intensivo questa pratica di consapevolezza può succedere che ci renderemo conto di avere meno bisogno di ore di sonno. And even if the sleep coach of a modern smartwatch recommends sleeping 8 hours a night, we will get by with far less than that. Allora, sembra che ci sia questi nuovi allenatori del sonno, persone che insomma parlano dell'importanza di dormire, dicono che bisogna dormire almeno 8 ore a notte, noi invece vedremo che comunque è possibile anche fare un pochino meno. Now, taking delight in company is the Sanghanika. Refers to enjoying having company, whereas the Buddha's Dhamma is for those who resort to solitude. E il fatto di deliziarsi nella compagnia, questo Sanghanika, vuol dire appunto il godersi molto la compagnia degli altri, però il Dhamma del Buddha è per delle persone che amano la solitudine, che si deliziano anche nella solitudine. Now, among those auxiliary practices we have also guarding one's sense doors, restraint of the sense doors, restraining the eyes, the ears, the nose, the tongue, the body and the mind. Tra queste pratiche ausiliarie c'è questo contenere i sensi, quindi cercare di contenere gli organi dell'occhio, dell'orecchio, del naso, della lingua, del corpo e della mente. And even though we have eyes to see with, and even though it is so beautiful up here at Biandeji Deji with the mountains around, despite of this, we try to restrain our eyes as much as possible. The reason being, very simple, if we keep looking around, then all sorts of sense impressions will impinge on the mind and will agitate the mind, and we will think about what we have just seen. Quindi anche se abbiamo gli occhi che funzionano e anche se qui a Piandici 10 ci sono così tante cose belle qui intorno da vedere, il motivo per cui cerchiamo di non andare troppo all'esterno tramite la nostra vista è che quando questi oggetti visivi colpiscono l'occhio, poi vanno a imprimersi nella mente e poi inizieremo anche a pensare su quello che abbiamo appena visto. The same thing goes for the hearing, even though we have ears to hear with, and even though there are some beautiful bird songs to be heard, yet from a meditator's point of view, we just want to label this as hearing, and not get carried away with it, and suddenly then keep our attention mostly on the body. E questo vale anche per l'udito, quindi anche se sentiamo questi bei canti degli uccellini e altri bei suoni, da un punto di vista di un meditante, quello che vogliamo fare è quello di etichettare questo cose che sentiamo con udire e cercare invece di tenere la nostra attenzione sul corpo. Now, another set of 6 activities that hinder spiritual development is Sapna being mentioned in the text and attributed to Elder Sariputta? Altre sei qualità che ostacolano il progresso della meditazione si trovano nei sutta e sono attribuite al venerabile Sariputta. The first four are the same as Satna just mentioned, so work, talk, sleep and company. E le prime quattro sono quelle che abbiamo già menzionate, quindi il lavoro, il dormire, la compagnia e Parlare. And that what are different are number 5 and number 6. And the number 5 further point is delighting in bonding. And when we bonding in the sense of association, of seeking contact. E il quinto invece è quello di deliziarsi nel nostro cos'è body? Legami, nei legami e quindi nel deliziarsi nel cercare il contatto con altre persone. Yeah. And okay. So, and this bonding in the Pali scriptural language is known as samsagga, and it is of two kinds. Allora, in Pali si dice samsagga, e questo legame, questi legami, e sono di due tipi. And so there's seeking contact by way of sight, so making eye contact, as we would say in English, or by seeking contact, by hearing, listening to the beautiful voice of another person. Allora, quindi il contatto che è una ricerca di contatto visivo, lo diciamo anche in Italia, in italiano, quindi cercare di avere un contatto visivo, oppure un contatto uditivo, quindi ascoltare, per esempio, anche una bella voce piacevole che ci piace. And so on retreat, we try to refrain from that kind of bonding, companionship, and taking delight in seeing another person or hearing another person or some the bird call or song of a bird. E quindi in ritiro noi cerchiamo di appunto contenerci, ritirarci anche da questi tipi di legami, di contatti, quindi nel cercare di osservare le altre persone oppure dal ascoltare le altre persone, ma anche ascoltare troppo magari appunto il canto degli uccelli. No, the last point mentioned by Elder Sariputta is prolific conceptualization, which means one gets started with one idea, with one thought, and then allows the mind to go on thinking and thinking more and even more, etc. And this may get out of hand. And this is rather destructive to our meditation practice. E l'ultimo punto è quello che riguarda una prolificazione concettuale. Quindi questo significa di cercare di non perderci nei nostri pensieri, non iniziare a pensare sulle cose, su farci le nostre idee personali, eccetera, perché questa cosa può sfuggirci un po' di mano e diventa un grande ostacolo alla meditazione. And the Buddha has expressed in no clear terms or unclear terms that this prolific conceptualization is actually a big, big hindrance to realizing Nibbana. E il Buddha ha detto molto chiaramente che questa prolificazione concettuale è un grandissimo ostacolo per la realizzazione del Nibbana. Whereas someone who does not get certainly involved in much proliferation or concepts conceptualization, such a person is said to be near to Nibbana. Una persona che non si perde in questi tipi di prolificazione concettuale, concettualizzazione, viene detta essere una persona vicina al Nibbana. Now, a certain link exists between the observance of the precepts, especially in terms of or related to speech and concentration. Esiste una certa connessione tra il rispettare i precetti, specialmente quello riguardante alla parola, e la concentrazione. And if we engage in harsh speech, then this is clearly not conducive to the arising of concentration. Se noi indulgiamo, diciamo, in una parola che è molto aspra o violenta, questo è chiaramente non ci conduce a una buona concentrazione. The Buddha has expressed this again in a slightly different way by saying that quarrelsome speech will obstruct the gain of concentration. Il Buddha dice chiaramente che queste, diciamo, dispute a parole, quindi come si dice, discutere, sono un ostacolo alla concentrazione. Now, this should be taken seriously. It happens during retreats that one meditator gets upset with another meditator, maybe because the neighbor is breathing too strongly. Allora, questa cosa deve essere tenuta in considerazione, perché è successo comunque in un ritiro che un meditante si era molto arrabbiato davvero con un altro meditante, probabilmente solo perché quest'altro stava respirando in modo un po' troppo forte. Or if the time has come for another meal and you have lined up and someone else certainly walks by and cuts into the line, you might not like it either. Oppure se siete in fila per il pranzo e qualcuno vi taglia la strada e si mette davanti a voi, anche questo potrebbe non piacervi troppo. Or you do your walking meditation, you have your path in view, and someone else decides, no, I have to cross this path. Oppure state facendo la meditazione camminata, questo è il vostro percorso della meditazione, ma qualcun altro decide che deve farla anche lui attraversando il vostro percorso. And so please, I beg you, do not get into a fight with another yogi. And this does not lead to good results. Quindi io vi prego di non iniziare a litigare con gli altri meditanti, perché non porterà dei buoni risultati. And the Buddha clearly states that friendly forms of communication are conducive to the development of concentration. Il Buddha dice anche che delle forme gentili, amichevoli di comunicazione invece aiutano lo sviluppo della concentrazione. And if a fellow retreatant has wronged you in one way or another, and you sit in meditation and you think about it over and over and over again, then It will be very difficult to observe the rising and falling movement of the abdomen or any other predominant object. E se un vostro compagno di meditazione ha fatto qualcosa di sbagliato, poi voi vi sedete in meditazione e continuate a pensare su questa cosa ancora, ancora e ancora, sarà difficile seguire e salire e scendere dell'addome. Now, being on retreat, it's good to remind oneself of this precious opportunity that one has to go on retreat. Is not something that is obvious. It happens only when quite a number of conditions are fulfilled. Let's say you get time off from work, and your family agrees to you going on retreat, and then a retreat center needs to be there, a retreat needs to be arranged, and all of this. E poi per fare il ritiro è utile anche tenere a mente che fare un ritiro è un'opportunità molto preziosa, perché non è una cosa da prendere per scontato. Per esempio, andare in ritiro deve sempre essere basato su alcune condizioni. Per esempio, dobbiamo avere del tempo da lavoro, libero da lavoro, la famiglia deve essere d'accordo con noi che andiamo a un ritiro, e poi ci deve essere un ritiro, quindi deve esserci anche un ritiro organizzato. And for instance, here we have Gianni, Sandra, Gautam, Friederike, and a number of volunteers who don't owe you anything whatsoever. And out of much goodwill do they serve here as volunteers. And this needs to be respected through proper practice. E ci sono molte persone qui, Gianni, Sandra, Gautam e molti altri, i ragazzi della cucina, che lavorano e fanno tutto quello che è necessario per noi, per questo ritiro, e quindi questa è una cosa che deve essere apprezzata e anche rispettata. And of course I have to include Neva, working hard. Now, when we practice, we want to do so with a proper attitude, mental attitude. An attitude is something very subtle, but it may have a big impact on one's meditation. And so we want to practice with an attitude of patience towards our own practice, patience towards our fellow yogis, and certain conditions at the meditation center. Allora, poi una attitudine molto importante da portare nella pratica, che è un'attitudine sottile, però è fondamentale, questa attitudine alla pazienza, quindi una pazienza verso la nostra stessa pratica, verso noi stessi, pazienza verso i nostri compagni di meditazione e pazienza anche verso le condizioni che troveremo qui in questo centro. We also want to practice with consideration for our fellow yogis and avoid doing anything that might disrupt another yogi. Quindi poi vogliamo anche praticare tenendo in considerazione gli altri meditanti e cercando di evitare cose che potrebbero infastidirli. Like taking a shower at midnight where everyone else wants to sleep. Per esempio, facendo una bella doccia a mezzanotte quando tutti dormono. Now, mindfulness practice is not always easy to do, and it takes a good amount of determination for things to unfold. Allora, la pratica di consapevolezza non è facile da sviluppare, quindi serve una buona quantità di determinazione per far sì che le cose si sviluppino. We want to keep the quality of diligence in mind, to be diligent in our practice, the way we carry out our sitting practice, our walking practice and the general activities. Quindi vogliamo tenere a mente questa qualità della diligenza, cioè di praticare in modo diligente e di fare le sedute di meditazione e la meditazione camminata, tutta la pratica in modo molto accurato e diligente. And we further want to practice with an attitude of a sense of urgency, namely realizing now is the time to make an effort to exert ourselves in the practice. Who knows what will happen in a year or two from now? E poi di mantenere a mente un certo senso di urgenza, nel senso di avere questa idea che il momento di praticare bene è adesso, è ora, perché non possiamo sapere che cosa succederà tra 2 anni o anche il prossimo anno. The texts describe one quality, namely sakacchakiriyaya sampaditi, which translates as practicing with an attitude of care and respect. Poi c'è questa qualità del praticare con cura e rispetto, che appunto in pari è sakacchakiriyaya sampaditi. Now, to express this certain quality in a different way is certainly to practice with all of one's heart and mind, so wholeheartedly. Or another way of putting it is to surrender to the practice. E questo significa intraprendere questa pratica davvero con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra mente, oppure in altre parole è arrendersi completamente alla pratica. And so, by the words care and respect is meant we take care to be mindful of every single tiny little activity that we might be engaged in the course of a day. Quindi quando usiamo la parola cura e rispetto, si intende cercare di essere consapevoli di ogni più piccola attività che compiamo durante tutto l'arco della giornata. And so these could be small movements of the body. This could be the turning of a head, or maybe reaching for this certain object or that object, opening and closing of the eyes, and so on. Questo include piccoli movimenti che facciamo con il corpo, magari voltare la testa da una parte o dall'altra, allungare la mano per afferrare un oggetto, ma anche chiudere o aprire gli occhi. And respect is in the sense of having respect for our own practice. It's our practice. And suddenly we are the ones suddenly to reap the results of our practice. And so to treat one's own practice in a proper way and not as something to be easily thrown away. E poi avere molto rispetto della nostra pratica, perché è la nostra pratica che poi porterà a noi stessi dei risultati, se fatta propriamente, e quindi cercare appunto di farla con cura senza lasciare facilmente di essere trascinati via facilmente dalla pratica. And when one considers that through mindfulness meditation over a longer period of time, profound positive changes can take place in our lives, then we will come to have more respect for this practice, because we realize that huge changes can take place. E si può tenere a mente, forse alcuni lo sanno, che dopo molto, un lungo periodo di pratica, anche dopo anni di questa pratica di consapevolezza, dei grandi e dei profondi cambiamenti possono avvenire nella propria vita, dei miglioramenti, e quindi tenendo a mente questo aspetto ci sarà più facile avere rispetto per questa pratica. No, in terms of fitness, the instructions that Satna, the Buddha, has given for the mindfulness sat meditation practice. E quindi il Buddha ha dato delle istruzioni per lo sviluppo e la pratica della meditazione di consapevolezza. Here, a retreatant dwells contemplating the body in the body, ardent, clearly comprehending, mindful. Qui un meditante dimora contemplando il corpo nel corpo, ardente, con chiara comprensione e consapevole. Having removed covetousness and discontent in regard to the world. Avendo rimosso il desiderio e il dispiacere nei riguardi del mondo. One dwells contemplating feelings and feelings, ardent, clearly comprehending, mindful, having removed covetousness and discontent in regard to the world. Contempla le sensazioni nelle sensazioni, ardente, con chiara comprensione, consapevole, avendo rimosso il desiderio e il dispiacere nei confronti del mondo. One contemplates the mind in the mind and dhammas in dhammas. E allo stesso modo contempla la mente nella mente e i dhamma nei dhamma. Now, these are the instructions as given in the Satipatthana Sutta. The Venerable Mahasi side of Burma has given the following advice, the following suggestions with regard to the sitting meditation. Allora, queste sono le istruzioni date dal Buddha nel Satipatthana Sutta, mentre il venerabile Mahasi Sayadaw della Birmania ci dà queste altre istruzioni per la meditazione seduta. The first one is that we choose a sitting posture that we can maintain comfortably over a longer period of time. Primo è quello di scegliere una posizione in cui sederci che possiamo mantenere in modo abbastanza comodo per un buon periodo di tempo. So if one's body is quite flexible and one can sit in full lotus easily for a longer period of time, well, that's fine. But not everyone is that fortunate. And so instead, one can also sit in the so-called Burmese posture, placing one leg in front of the other. Quindi se abbiamo un corpo molto flessibile e riusciamo a sederci facendo il loto completo, star seduto per un'ora intera così va benissimo, però dato che non tutti riescono a farlo, per esempio c'è un'altra posizione, quella birmana, in cui una gamba è posizionata davanti all'altra. Or else one could certainly sit in half lotus if full lotus is not possible. Oppure c'è anche la posizione del mezzo loto, se fare un loto completo non è possibile. Or else if someone prefers to sit on a bench, that's fine too. È possibile anche sedersi sui panchetti, anche questo si può fare. And for those of you who have had some spine surgeries or you have some chronic back issues and you do need to sit on a chair, well, do just that, but at least try not to lean against the backrest. Per chi ha avuto operazioni alla schiena oppure ha dei dolori particolari, allora ci si può anche sedere sulla sedia, però in questo caso fate attenzione a non appoggiarvi allo schienale troppo. When we sit, we want to sit with the trunk as upright as possible, ideally at a 90 degrees, at a 90-degree angle to the floor. Quando siamo seduti, cerchiamo di farlo tenendo la schiena dritta il più possibile, con la spina dorsale che è a 90 gradi rispetto al pavimento. So when sitting with an upright posture, we then mindfully slowly close the eyes, focus our attention on the rising and falling movement of the abdomen as we're breathing naturally. Quindi una volta che siamo seduti, chiudiamo gli occhi consapevolmente, portiamo l'attenzione a salire e scendere ai movimenti del salire e scendere dell'addome che avvengono mentre respiriamo in modo naturale. And so when the rising of the rising movement of the abdomen occurs, then we focus our attention on it, we label this rising movement as rise or rising, and we try to observe it from start to finish and come to know its nature, come to know its certain various qualities, characteristics, etc. Allora, quando c'è il salire dell'addome, noi lo osserviamo e lo etichettiamo con salire oppure su, e lo cerchiamo di seguire dall'inizio alla fine e di osservarne la sua vera natura o di tutte le qualità di cui è composto. Then when the falling movement of the abdomen occurs, we focus our attention on the falling movement, we label it briefly as fall or falling, and then we try to observe and to come to know the nature of the falling movement of the abdomen. Quando poi l'addome scende, noi lo osserviamo e lo etichettiamo, lo notiamo con giù oppure scendere, lo seguiamo tutto dall'inizio alla fine, notandone la sua natura o le qualità che ha. And knowing the nature of the rising or falling movement means knowing qualities that are prominent, that are conspicuous, that are obvious, such as the expansion of the abdomen in the case of the rising movement, the contraction in the case of the falling movement, then maybe some tension, some stiffness, some tightness in the rising movement, some release of tension, stiffness, tightness in the falling movement, and so on. Quindi quando parliamo di osservare la natura, si intende osservare le qualità che sono più ovvie, che diventano più evidenti in quel momento, per esempio una sorta di tensione o contrazione quando c'è il salire dell'addome, quando c'è lo scendere magari c'è un senso di rilassamento, poi possono esserci sensi di rigidezza, espansione, tutte queste sensazioni che sono più ovvie. Mm-hmm. And also including the movement itself, is it a continuous movement, is it a discontinuous movement, maybe a wave-like movement, etc. Anche il movimento stesso può essere osservato, se è un movimento continuo, se è un movimento discontinuo, se è un movimento che va un po' ad onde. And to be very clear from the very beginning, we do not observe the flow of air moving through the nostrils down the windpipe into the lungs and then eventually causing the rising and falling, but rather we focus our attention primarily on the rising movement and falling movement of the abdomen and excluding the earlier portions. Allora, deve essere chiaro dall'inizio che noi qui non seguiremo il percorso dell'aria che entra dal naso, che scende giù, arriva fino ai polmoni. Quello che dobbiamo osservare è soltanto l'area dove c'è questo movimento del salire e scendere dell'addome e le sensazioni che sono lì, e quindi non il respiro che sale e scende. Now, as we are observing the rising falling movement of the abdomen, sooner or later some pain might arise, sadness somewhere in the body. In this case, we let go of the rise and fall, we focus our attention on the pain, we label it as such as pain, we observe it in a patient manner with determination, and we try to come to know its nature. So what kind of a pain is it? Allora, dopo un po' che seguiamo salire e scendere dell'addome, succederà che sorge un dolore. Allora, in quel caso, spostiamo l'attenzione su quel dolore, lo etichettiamo come dolore, dopodiché cerchiamo di osservarlo sempre nella sua natura, nelle sue qualità, e questo significa cercare di rendersi conto di che tipo di dolore si tratta. And so, the type of certain pain is one aspect we could pay attention to. Furthermore, we could certainly check what happens in terms of the intensity of the pain. Is it increasing? Is it decreasing? Is it staying the same? What happens to the location of the pain? Is it changing or not? And what happens to, in terms of the duration of the sensation? Allora, il dolore, quindi possiamo vedere che tipo di dolore è, poi possiamo osservarlo nella sua intensità, quindi nel senso possiamo renderci conto se sta crescendo di intensità, se diminuisce, guardare questi ondeggiamenti dell'intensità. Poi possiamo guardare il luogo in cui è, quindi se si sposta, se rimane lì fermo, e la durata nel tempo, quindi se poi quanto dura o se scompare. Now, the same goes also for other prominent sensations in the body. So this sadness could be maybe some tightness somewhere, or it could be various movements of the body, etc. E poi, poi ci sono anche tutte le altre sensazioni che avvengono nel corpo, possono esserci sensazioni di tensione, oppure dei movimenti in giro per il corpo e tutte le altre cose. When a pain has subsided or it's not changing much, then our attention goes back to the primary object, namely the rising and falling movement of the abdomen. E se nel dolore non vediamo molti cambiamenti, oppure se addirittura scompare, dopo un po' riportiamo l'attenzione al salire e scendere dell'addome. And then as we're observing the rising falling movement of the abdomen, we might notice after a while that the mind goes off into thinking. Poi, dopo un po' che seguiamo salire e scendere dell'addome, succederà che la mente inizia a pensare. And with that, the thinking becomes the next object of observation. We label it, we observe it, we come to know its nature. And we want to make sure not to get caught up in the content of the thinking. In questo caso il pensiero diventa nostro oggetto, quindi lo etichettiamo, pensare, e poi cerchiamo di conoscerne la sua natura, stando ben attenti a non essere catturati dal contenuto del pensiero. Once the thinking has subsided, we go back to the rising and falling, we observe the rise and fall for a while, and sooner or later, we might get angry with our neighbor, with our fellow meditator. And suddenly the anger becomes the next object of observation, and so we want to be mindful of that, we label that, we observe it, we try to know its nature and not act on it. Poi, dopo un po' che osserviamo salire e scendere dell'addome, magari sorge della rabbia per il nostro compagno di meditazione, allora la rabbia diventa il nostro oggetto, la etichettiamo, rabbia, la osserviamo, cerchiamo di conoscere la sua natura e poi quando scompare torniamo al movimento dell'addome. And certainly just like anger might arise in the mind, so many other mental states might also arise in the mind. Such as greed at times, or at other times, not non-greed, generosity. Instead of the anger, loving-kindness might arise. At times, there might be a lot of sloth and torpor. At other times, there's lots of energy. At times, we might find the mind to be rather restless, agitated. At other times, it's calm, and so on. E non sarà solo la rabbia che sorge, ma ci saranno tanti altri stati mentali diversi. Alcune volte ci sarà l'avidità, alcune volte il suo contrario, cioè la generosità, e poi oltre alla rabbia magari la gentilezza amorevole, poi potrebbe esserci della sonnolenza, del torpore, ma anche troppa energia magari, e quindi e l'irrequietezza, l'agitazione. And then of course we have faith in the practice and certain doubting the practice. E poi naturalmente ci potrà essere anche una fiducia, la fede verso la pratica, oppure dei dubbi che sorgono verso la pratica. Now, once a certain mental factor has subsided, our attention goes back to the rising and falling movement of the abdomen, and the hearing process becomes the next most prominent object. Well, we include this in our field of observation. We label it as hearing, and we try to carefully observe the hearing process as it unfolds. E quando questi stati mentali diminuiscono o scompaiono, torniamo all'osservazione dell'addome. Se dopo un po', per esempio, sorge un suono forte, allora possiamo portare attenzione al processo dell'udire, etichettiamo questo suono come udire, e cerchiamo anche qua di conoscere la natura di questo processo, quindi del processo dell'udire. The same thing goes for the seeing process. This might be during the walking meditation, seeing some external object. During the sitting meditation, it might be seeing some internal object, some image, a scenery, the face of a friend, and so on. Questo anche con il vedere, sia che stiamo facendo la meditazione camminata, quindi vediamo qualcosa proprio con gli occhi, oppure nella meditazione seduta, se sorgono delle immagini nella mente, o la faccia di un amico, qualunque immagine, possiamo etichettarla con vedere. And even if some wonderful colors arise in the mind, well, they too are just another object to be observed. So it's a form of internal seeing. We label that as seeing, and we know the nature of it, and we don't get carried away by the experience. Anche se dovesse sorgere durante la seduta un colore nella mente, qualche colore, dato che assomiglia a un processo visivo, etichettiamo anche quello con vedere, e non ci lasciamo catturare da questo colore, ma lo osserviamo nella sua natura finché non scompare. Now, important for the practice are mindfulness, in particular the continuity of mindfulness, energy or effort, and certainly then also a proper aiming of the mind towards the object, and the mind certainly then being in close contact with the respective object. Allora, importanti per la pratica sono una continuità della consapevolezza, lo sforzo, l'impegno, cioè l'energia e l'impegno che ci mettiamo nella pratica, e anche una certa direzionare in modo preciso la mente verso gli oggetti di meditazione. As for the labeling, we try to find a rhythm that works for us, not to label too much, but also not to label too little. If we label too much, there won't be much time to actually observe and know the nature of the respective object. If we label too little, the mind might easily go off into thinking. Allora, per quanto riguarda l'etichettatura nella nostra pratica, cerchiamo di non usarne né troppe né troppe poco, perché se etichettiamo troppe cose, poi non avremo il tempo, lo spazio necessario per osservare la natura degli oggetti, mentre se etichettiamo troppo poco, è probabile che subentrino delle distrazioni o che ci perdiamo. And when we label objects, then we do so with simple language. So seeing, hearing, smelling, stretching, bending, heat, cold, thinking, and so on. E le parole che utilizziamo per queste etichette mentali sono parole semplici di linguaggio comune, quindi vedere, udire, gustare, allungare, pensare. And please refrain from using Pali technical terms such as, oh, now I am experiencing anicca, now I am experiencing dukkha or anatta. Just keep it to simple language. E anche quando si descrive l'esperienza, cercate di non usare delle parole in pali, per esempio, adesso sto sperimentando anicca, sto sperimentando anatta, usate delle vostre parole, parole vostre. And so if at first you have a hard time finding the right word, never mind, then go for the most simple word that comes to mind, and over time you'll be able to to collect a descriptive vocabulary. Magari all'inizio potete avere un po' di difficoltà a trovare le parole giuste, ma prendete proprio la più semplice, la più immediata che viene alla mente, poi dopo un po' di tempo si creerà una sorta di vocabolario adatto. Now, briefly, just a few words about the walking meditation and general activities. There will be more instructions given tomorrow morning. The walking meditation in the Mahasi tradition and based on the Buddha's Sutta teachings is as important as the sitting meditation. So please do not think lowly of your walking meditation. Adesso dico qualche parola sulla meditazione camminata, sulle attività quotidiane, poi altre istruzioni verranno date domani mattina. Allora, nella tradizione di Masi Sayadaw, la meditazione camminata è importante tanto quanto la meditazione seduta, quindi cercate di non avere un'idea al ribasso della vostra meditazione camminata, cioè è importante come la seduta. And typically we spend about an equal amount of time in the sitting meditation and walking meditation. So if initially we sit for an hour, we walk for an hour. If maybe we can't sit that long, we sit for 45 minutes and we walk for 45 minutes. However, this being a larger group, so I would advise sit for the entire hour. If you do need to sit, change your sitting posture, do so slowly, mindfully, and then continue. E tendenzialmente si cerca di fare la camminata nello stesso durata della seduta, quindi se ci si siede per un'ora si fa la camminata di un'ora, se ci si siede 45 minuti si fa la camminata di 45 minuti. Dato che qua adesso siamo tutti un gruppo molto numeroso nella sala, staremo seduti per un'ora, però se volete potete naturalmente cambiare posizione. The Venerable Mahasi Sayadaw recommends to divide one's walking meditation into three portions of 20 minutes each if we walk for an hour. And then during the first 20-minute period to label as left step when the left leg moves, the label as right step when the right leg moves, so left step, right step, left step, right step. The focus of the attention is on the most prominent sensation in the leg or in the foot which moves. Allora, sempre nella tradizione di Masi Sayadaw, quando possiamo dividere l'ora della meditazione camminata in tre fasi da 20 minuti, nella prima fase etichettiamo ogni passo, per esempio passo destro, quando si muove ovviamente la gamba destra, passo sinistro, destro, sinistro, e possiamo portare l'attenzione sulle sensazioni o della gamba oppure del piede, le sensazioni che sono più evidenti, che sono più prominenti. And then this first type of walking meditation is done slightly slower than ordinary walking. Questa meditazione camminata è fatta in modo più lento della camminata normale. During the second period of the walking meditation, we slow down our walking to some extent. We then divide one step into two parts, namely the lifting of the foot and the lowering and placing of the foot, and we label it accordingly. Poi nella seconda parte dell'ora, quindi nei secondi 20 minuti, rallentiamo ancora un po' di più e dividiamo ogni passo in due fasi diverse, sempre etichettando, quindi etichettiamo sollevare mentre solleviamo, abbassare mentre abbassiamo. And during the second type of walking meditation, the attention is mostly no longer on the leg, but rather on the foot itself. And then we try to know the sensations that occur during the lifting and the placing. In questa seconda parte della camminata l'attenzione non va portata più sulle sensazioni della gamba, ma soltanto sulle sensazioni del piede, quindi del piede mentre c'è questo sollevarsi e questo abbassarsi. And during the third type of walking meditation we slow down the speed of it even more, so it becomes really slow, the walking, and we divide one step into three parts, namely the lifting, the forward movement and the lowering and placing. Poi nella terza parte, gli ultimi 20 minuti, rallentiamo ancora di più e dividiamo ogni passo in tre fasi, quindi c'è il sollevare, muovere e abbassare. And during each of those three movements, so the lifting, the forward movement, and the lowering, and the placing, we try to observe as detailed as possible. E tutte queste tre fasi, il sollevare, il muovere e l'abbassare, cerchiamo allora di osservarle nel modo veramente più dettagliato possibile. So to give you an example, during the lifting of lifting process, when the heel comes off the ground, at first there might be some pressure in the heel. As the foot comes off the ground, the pressure might decrease, so we know this, and then it might decrease even further. Then there might be some stretching sensation in the sole of the foot, there might be pressure in the ball of the foot, and so on. Per esempio, quando il piede si inizia a sollevare dal suolo, quindi c'è il tallone che inizia a sollevarsi, sentiremo della pressione magari iniziale, poi pian piano questa pressione inizia ad allentarsi, si allenta sempre di più, allora magari iniziamo a sentire della tensione che è invece sulla parte avanti del piede e così via. Also to avoid some mistake that oftentimes happens, namely, there's no need to label every single sensation that comes along. It's quite enough at the beginning of the lifting process to label as lifting, and then we give ourselves enough time to observe and know the different sensations as they occur without specifically labeling them, and then the same thing goes for the forward movement and lowering and placing. Allora, dato che è un errore che molti fanno all'inizio, non è necessario usare un'etichetta per ogni sensazione che si percepisce. È abbastanza se, per esempio, all'inizio del sollevare etichettiamo sollevare e poi ci diamo tutto il tempo per osservare in dettaglio le sensazioni senza più doverle etichettare. And restraint of the senses has been mentioned already on several occasions, and this restraint of the senses is of high importance during the walking meditation. So when you do your walking meditation, this is not like walking somewhere downtown in Milan or elsewhere, but it is really focused walking meditation that is done slowly and with the senses well controlled, not getting distracted. Quindi abbiamo già nominato varie volte questo contenimento dei sensi, e nella camminata questo è estremamente importante, perché non è che stiamo passeggiando in centro città a Milano, per esempio. Quindi quando facciamo una meditazione camminata stiamo molto attenti che i sensi siano contenuti sulle nostre sensazioni corporee. And all the other activities, apart from the formal sitting meditation and the formal walking meditation, also become objects of our mindfulness practice. And so this is everything starting with the process of waking up early in the morning, the process of getting out of bed, the process of going to the bathroom and maybe taking a shower and then putting on clothes and opening, closing of doors and taking a meal, drinking some liquid, and so many other small activities that might occur during a day that we want to be mindful of. Allora, tutte le altre attività che non rientrano nella meditazione seduta o nella meditazione camminata sono comunque uno nostro oggetto di meditazione. Quindi dal momento in cui apriamo gli occhi, ci svegliamo nel letto, anche quando ci alziamo, quando andiamo in bagno, magari facciamo una doccia, poi ci vestiamo, apriamo, chiudiamo le porte, mangiamo, beviamo, qualunque altra attività deve essere fatta così, con consapevolezza. Then when we take a meal, we want to be really mindful of everything involved in the process of taking the food. E quando stiamo mangiando un pasto, cerchiamo di essere davvero super consapevoli di ogni piccolo movimento che crea questo processo del mangiare. And this also includes the chewing process, chewing the food and knowing the taste that emerges. Quindi anche proprio il masticare, deglutire, gustare i sapori. So, in essence, we want to practice mindfulness during the formal sitting meditation, during formal walking meditation, and certain general activities. Quindi, it may seem to be very little, but in the end it turns out to be quite a lot. Quindi in breve quello che vogliamo fare è sviluppare la nostra consapevolezza durante la seduta, la camminata, durante le attività quotidiane, che può sembrare poco, ma in realtà sono tantissime cose. And the general activities, please also do those as slowly as possible. E per favore le attività quotidiane cercate di farle veramente il più lentamente possibile. Now, maybe this much in terms of our opening talk, introduction to the retreat. And until tomorrow, try to implement these instructions as best as you can. Still, many things certainly remain to be explained. We'll do that tomorrow morning. At what time? 9 o'clock? 9, yeah. Yeah, 9 o'clock? Okay. So at 9 o'clock tomorrow morning, please come again here to the meditation hall, and there will be a demonstration, for instance, how to do the walking meditation and a few more details regarding to the sitting meditation. Allora, per stasera il discorso di presentazione così abbastanza, poi quindi per adesso e poi domani mattina cercate di mettere in pratica questa istruzione che avete ricevuto ora. In ogni caso, domani alle 9 di mattina ci troviamo qui e verranno date delle ulteriori istruzioni più in dettaglio per la camminata, eccetera. And certainly please try to practice with a mind that is relaxed and yet alert. E per favore tentate di praticare con una mente che è sia rilassata ma allo stesso tempo anche vigile. Hannah, and striving doesn't work. Making a strenuous or an excessively strenuous effort, getting all tensed up, this definitely does not work. E impegnarsi non vuol dire sforzarsi così tanto che poi si diventa tutti tesi, perché in definitiva questo non funziona, poi non va bene. And certainly during the first few days, some difficulties might occur. Try to be patient with yourselves, with your practice, and as the days go by, you will see changes occur, and all of a sudden the world looks quite differently. Allora, i primi giorni di pratica ci saranno delle difficoltà, quindi potete essere pazienti con voi stessi, poi vedrete che man mano che i giorni vanno avanti, invece le cose inizieranno un po' a cambiare, a svilupparsi. So allow me to conclude today's opening discourse by wishing may all of you have a fruitful retreat. Please do try to implement the instructions as best as certain possible, and certainly then may your retreat unfold nicely and smoothly. Quindi per concludere vi auguro a tutti di avere un ritiro buono e fruttuoso e che possiate applicare le istruzioni il meglio possibile e che il ritiro possa svilupparsi. Sadhu, sadhu, sadhu, sadhu.